E niente, qua siamo un gruppo di persone, uomini e donne, che siamo entrati in questo posto, un posto abbandonato da una ventina di anni, un posto, sono un paio di casali con un parco attorno, siamo entrati più o meno da un'ora e mezzo, in questo momento sono arrivate le prime due volanti della polizia, abbiamo iniziato a parlare con loro. Insomma, la nostra intenzione inizialmente è di ridare vita a questo posto con una due giorni che sarà sabato e domenica, in cui abbiamo già in programma una serie di iniziative con varie realtà del territorio, dallo sport popolare ai ragazzi che verranno a fare dei graffiti, a pranzi sociali. Insomma, vorremmo un attimo dimostrare come posti abbandonati, come questo, posti con una potenzialità immensa in quartieri periferici in cui la mancanza di spazi e di case è una vera emergenza, in realtà si può dare una risposta diversa e far rivivere quei posti abbandonati e lasciati alla speculazione, ad esempio con iniziative del genere, dal basso, auto-organizzate, che vogliono appunto proporre un modo diverso di vivere questi posti, un modo diverso di socialità, un modo diverso di vivere i quartieri. E quindi, insomma, per ora siamo qua, già abbiamo pronto il programma per i prossimi due giorni, pensiamo di invitare un po' tutti e tutte, in particolare già da oggi però alle 5 volevamo insomma invitare tutti i compagni e le compagne che riescono a passare per fare un'assemblea tutti insieme, per presentare il posto e per capire un po' insieme a tutti e tutte come viverlo, come starci in questi primi giorni e condividere insieme questa esperienza, appunto. Quindi non un'occupazione solo a scopo abitativo, ecco, dovrebbe essere. No, inizialmente insomma noi il modo in cui ci stiamo presentando comunque è per ridare vita a questo posto e stare dentro questi due giorni. Poi insomma vogliamo anche un attimo vedere quale sarà la risposta da parte del quartiere, quale sarà la risposta da parte insomma della controparte, e vedere un attimo quali sono le prospettive per questo posto. Inizialmente stiamo entrando anche semplicemente per insomma in un lavoro che è un lavoro territoriale sui nostri quartieri, di denuncia della presenza di posti del genere a fronte di una mancanza reale di spazi e di case, è veramente veramente evidente. Quindi quello che intanto vogliamo fare è riempire questo spazio in questo weekend, che è uno spazio con delle potenzialità immense, insomma un casale con un parco molto grande attorno, insomma riempirlo di iniziative, far vedere insomma qual è il nostro tipo di risposta a un'emergenzialità che ci vogliono proporre in qualunque situazione, insomma a questa crisi che mettono in mezzo per ogni situazione, per sfruttare di più i lavoratori, per toglierci tutto quello per cui in realtà tutti i giorni veniamo sfruttati. E quindi pensiamo che la nostra risposta reale rispetto a questo possa essere ad esempio riprendere posti del genere. Quindi sì, c'è il tema abitativo, però c'è anche una tematica comunque sociale, nel senso che vogliamo comunque creare uno spazio che sia attraversabile da tutti e tutte, che sia anche una risposta a una mancanza reale di luoghi sociali, per lo sport, per la cultura in questi territori. Senti, riguardo la controparte, ci dicevi che si sono fatte avvistare le prime volanti della polizia, ma insomma una presenza ancora discreta oppure un po' più... Per ora ci sono due volanti davanti al posto, insomma il profilo è abbastanza basso, insomma quello che noi andiamo a dire appunto, come ripeto, è questo fatto della due giorni, insomma quindi non sappiamo neanche se questo posto ce lo vogliamo tenere realmente, insomma per ora vogliamo dargli vita per questi giorni e vedere cosa ne esce fuori, quindi comunque ci stiamo ponendo... Dicendo questo, per ora insomma l'atmosfera, insomma i poliziotti che sono venuti non hanno particolare interesse a sentirsi paladini della giustizia, della loro giustizia in questo momento, quindi stanno semplicemente parlando, insomma perdendo tempo come fanno spesso e dicendoci insomma, capendo qual è la situazione, non so, staranno aspettando immagini ordini dall'alto per capire come ragionare. Intanto insomma la nostra intenzione è anche di metterci in contatto con la proprietà e di capire un attimo anche quale sia il loro atteggiamento, insomma anche in maniera tattica di chiedere un attimo di parlare, di capire come la vedono loro insomma a questo posto, possiamo capire di cosa si tratta. Certo. La proprietà è una specie di associazione legata alla chiesa che insomma però agisce anche sul sociale, qua vicino c'ha un centro per i rifugiati politici, insomma quindi non è proprio una realtà anche che tra virgolette nel suo modo parla di queste cose in qualche modo, però insomma sempre con le molle. Vedremo che succederà. Sì, esatto. Insomma, quindi chiediamo a tutti e tutte di venire in via Boccea 506, che è insomma l'indirizzo di questo posto. Tutti e tutte che possono venire, di venire, insomma, di partecipare, portare contributi. Alle 5 ci sarà questa assemblea, un primo momento importante, però insomma in tutti questi primi 3 giorni chiediamo la presenza di chiunque possa, insomma. Quindi è questo. Va bene, noi rifacciamo nostro l'appello, via di Boccea 506 questo pomeriggio, per capirci poco dopo via Mattia Battistini, o diciamo... Sì, dalla metro Battistini è possibile raggiungerlo con un singolo autobus, ci si arriva. Insomma, è proprio sulla via Boccea, dopo Monte Spaccato.